sono da anni e anni e anni di te che ce l'ha avuto il Doberman. Che succede questo particolare? Che è successo questo particolare? Che ho dovuto abbatterlo prima che... perché tanto non lo... impazzisce, il cane impazzisce perché non ci sta più il cervello dentro la scatola cranica, capito? E per quello, avanti, grazie. Papà, li parlavo una zanta lì a Sorso, vicino a Sorso, alla campagna dei Ciulli. Due cagliari di magna, di carra buttita che mi dava il macellaio dove abitava la buona alma di mia madre. Era di fronte, ogni anno mi dava tutti le ritagli, due bidoni. E la buona alma di mia madre gli ribolliva per non dargli di crudi, no? E gli cucinava. Ma quasi ogni anno mi cagazzo. E poi li metteva al pane che avanzava con la bestia, quello duro, poi ce ne davano anche proprio apposta per il cane. Beh, dieci cani, fa lui la giura, papà non ce l'ha venuto, le bocca a mangiare, con la cosa degli occhi che te li ho visti, tutti e due puntati a bava di latiglia, ha di fatto in tempo a tirare un cancello e a mantenere la catena, se non me ne mangiava pure un rimane. Sono salito a casa, ho chiuso, l'ho detto a papà, siamo parati, sono passato dalla rete, sono salito sul tetto, erano impazziti tutti e due, ce li avevo da cucciolotti, da piccolini con il biberone li avevo fatti grandi. E ha ripigliato un pezzo di una trafila da zia, ha rifatto un gatto e l'ha già aggattato al collarino e l'ha già impiccato. Assassino. Cazzo assassino, ha rimasto mangiare il burro a fuori, arrivato di papà, chi gli dirò per gridare dentro va in trappola. Cazzo di dopo gli lo mangiare. Ma strano, però, in questo periodo sta succedendo che c'è il ribellione dei cani, perché prima non se ne sentiva di queste cose, il cane era l'amico dell'uomo, è considerato l'amico dell'uomo, se... dipende anche come viene educato, io cani ne ho avuto e io ne avevo uno che non era un cane di razza, però avevo l'intelligenza del cane, l'avevo trovato a Porto Torres, vicino a Porta Romana, un giorno di grandinata, cattivando questo cuccioletto, un battuffolo di cotone bianco bianco con la coda ricetta dietro, piccolino lì, quelli piccolini. Mi ha fatto pena, ha fatto lo sportello, non c'è un dritto, mi sa quando glielo mandavo, non mi era già arrivato a casa. Beh, questo cane giocava con tutti i bambini, con tutti i gatti, era molto dolce e cose. Ma sai cosa hanno fatto avere i cani? Quando vedevo i cani di mordeva, era una cosa allucinante, però con i bambini, con la gente, giocava, io lo portavo lì, tutti i bambini lo conoscevano, ma chiamavano Chica, Chica, vieni qua, lì correvano la paccarata, ma lì aveva una trottola a burrella. Lo so, però, gelosi questi cani così, perché anche un altro bombe, un cane lupo, ma te sì, l'abbiamo avuto chi sa da niente, ce l'avevamo sceso in campagna, adesso però era geloso, anche mangi mangiamo in nipote, pigli una palla, direi che bisciglito, è rimasta roba di 2 mesi che non entrava fino al cancello e rimaneva dentro l'olivetto, e invece la burbia non piano si è tornata, visto che non gli ho detto niente, però quando figliamo in ributta, ci ammava strada, è andata già da ridare a casa. E parte la tasca è molto intelligente come cane, è uno dei più intelligenti che c'è, fa selvaggini, tutte queste cose qua sono molto bravi. Se sono avvestati poi ancora meglio. Io avevo un amico che ne aveva due di pastori tedeschi e li aveva avvestrati lui, aveva comprato dei libri e delle cassette per come avvestrarli e li aveva avvestrati in tedesco, proprio diceva sintesi, si avevano, flat, si comunicavano, insomma li avvestrava in tedesco. E poi gli diceva, anche in italiano, diceva, a me si sta fermo. E lui stava fermo, parti tu, Rambo, e fa parte batti il ramo, da voi rilanciava la roba, no, gli veniva un coso di batti, poi diceva, tu sei fermo, amici, vai tu un ramo a prenderlo, no? E era partito da lui, poi faceva il contrario. Pensa quanto erano bravi questi casi, intelligentissimi, quando li vedevano li facevano sempre in quelle feste, bravi. Lo so, aveva avuto un lesso, io ho senso che era un presso di male, con tutti i muovi alla gola si avvicinava, di base a riflessi, poverino, e mi era rigassicato, una macchina l'è passata in alto. E piglia lui. Danni. Un attimo, grazie, che c'è qualcosa nella mia figlia. I cani sono obesi, però se sono così meglio non va bene. Io li amo gli animali, mi piace, non mi fanno mai per male. Io ho avuto anche un gatto tanti anni, 21 anni, figurati tu. Cani! Però o sei troppo, c'è il mic troppo vicino alla bocca, non ti sento bene bene. No, aspetta che abbasso, faccio per qua. Sei nasino. A me da come? Sei nasino lo stesso. E allora è come sono affondato. Ah, è stata di tipo risalto la moccia dalla colonnina, no? Ma no, perché a lui che lo sento bello chiaro, perfetto. E poi la tua voce è una mano a conosci quando è perfetta. È un po' di raffreddore, guarda. Mi sono beccato l'altro giorno, voglio essere l'altro giorno che mi ha mandato a Trattamona a fare un po' di pulizia, cosa l'ho aperto, mi stavo pulendo l'erba che fugava e mi sono preso un po' di freddo e un po' di pioggia anche, quindi avrei dato. Ah, beh, allora sì. No, io sono uscito stamattina e sono uscito dopo pranzo, sono andato a San Pietro, che oggi sono le grazie, oggi inizia il mese mariano, no? Cappa, mi ho preso un bel libro, lo sai, è intitolato Pregate, pregate, pregate, bello proprio, della Madonna. Che mi ha comprato un libro bello grosso della Madonna, è intitolato Pregate, pregate, pregate, c'è la Madonna. Me lo stavo leggendo, mi stavo ascoltando, adesso solo che quando tengo un po' gli occhiali mi devo dire un altro e la legge, perché non ci sono abituato a tenerli, non li tengo quasi mai, me li metto il tempo che mi leggo la cosa, qui c'è cioè me li leggo, capito? Se leggo senza gli occhiali, vengo 40, mi si addobbia tutto e non lo vedo, dunque me lo leggo piano piano. Sei molto devoto o hai fatto qualche promessa? Cosa? Devoto alla Madonna oppure hai fatto qualche promessa a Santo Pietro? No, vado ogni anno io lo, a San Pietro, perché mi chiamo Graziano, non la Madonna delle Grazie, capito? No, ma già ci vado anche senza essere il mese mariano, ci vado anche così quando vado, per esempio, che sono in zona lì, entro, accendo la candela, mi sto un po' e poi me ne vado. Anche io, dopo sono andato qualche volta, sono andato qualche volta, non certo, ma qualche volta sono andato anch'io, fanno anche una specie di ricevimento dentro. Adesso non me lo ricordo, lo devo controllare, portano la Madonna in giro l'ultimo giorno del mese, mi sembra, lo devo controllare. E poi se qua ci sono le bancarelle, mi ho preso anche il torrone, dato che lui ce ne va a me di gente. Adesso incomincia a arrivare tutta la gente, non ha dato manco un marchiglio, perché si piena tutto giù, capito? Ah, abbastanza guapi. Ah sì, io sono stato abbastanza fortunato perché sono andato presto, però apro il bar e 4 a chiesa e parcheggio ce n'era. Allora mi ha detto pensate chi ce l'ha a fare, non da pesante, oppure verso le 4 sono risalito e l'ho trovato per fortuna proprio di fronte alla chiesa là, nel piazzale. Se no c'erano già macchine. Ho capito, ma avevo un altro. Cosa? cosa? Gigi, da quando è diventato Archimede, sta sempre operando. Adesso magari dal frigorifero fa una lavatrice. Archimede è un altro, come Luigi. Archimede è una chiamata, aspetta un attimo, mamma, mi sono preso un gambattacchi. Ehi, adesso qua. Oh, io. Grazie. Graziano. Ehi, dimmi, Leonci. Mi senti a me? Sì, io ti sento, mi senti. Già ti sento, no? Credo che non stavo uscendo, No, già ti ho sentito quando hai detto io. Vabbè. No, pensavo che non avevi capito. Sì, ho capito. Ero per io in campagna. No, negativo, no. Era a pulirmi la macchina, grazie. La macchina mia, grazie. Era più sporca di quelle dei marocchini, cazzo. Però dicevi ti portavo anche la mia, quando mai? Ma non sapevo io, cazzo, dovevi lavarti la macchina. Se l'avrei lavata volentieri, lì, non c'erano problemi. Ci vuole molto picco, babbulista. Per carità. Bisogna provare a lavare dove c'è l'avvaggio Claudio. Dove c'è l'avvaggio Claudio? E Claudio ci ha comprato l'avvaggio, ce l'ha dietro via Chiarini, in via Bianchi. E chi è che ha comprato l'avvaggio? Chi? Davvero, Claudio, ci ha messo il genero a lavorare. Ho capito. E dove è questo via Chiarini già? Dove c'è, hai visto dove c'è la Comec, dove sono le poste all'alta voce? Dietro le poste lì c'è via Chiarina e poi c'è via Bianchi, lì via Bianchi nello spiazzo. E lì all'angolo là dello soppo, che lì prima c'era un meccanico. Non lo so, però so che si hanno fatto questo lavaggio. E ho visto l'altro giorno che c'erano due ragazzi asciugando la macchina fuori. Quello era un meccanico prima, aveva per una macchina. Aveva famiglia, ma che adesso? E c'era molto anche quel meccanico, che adesso è diventato un lavaggio. Ce n'è anche uno, nell'altra traversa, mi sembra il via Magellano. Però c'è anni lo stesso. Sì. Dove c'è Calimero lì? Allora, no, Calimero è... sì, aspetta, fammi pensare. Sì, in quella via lì. Calimero quando è alla fine della via. Chi dov'è più Calimero? Gamba. Sì, già lo conosco a Calimero. Anche i fratelli, la Lubavo, mi pare che è molto Lubavo. Cazzo, mi si abbassa di una volta, mi guidi? Tirati una menta, o non ce l'hai quello spray come quello che c'ho io, per la gola? Cazzo, io mi spruzzo quello, l'ho preso in farmacia, da 10 minuti, pure un mal di gola mi passa, ti viene anche la voce. Lo devi usare due volte, due spruzzi la mattina e due spruzzi la sera, se c'è mal di gola. E ti passa a me. Sì, che già ce l'avevamo a casa. Lo usava mia moglie pure. Ultimamente quando c'eravamo lì fuori lo usavamo. Allora io ce l'ho sempre, io quando vengo mezzo vioto me lo compro. Perché anche a me molte volte mi fa di male la ora, la sera specialmente. Allora mi cucino i bruciati e mi passa, quello che mi passa. Fa passare l'infiammazione. Sì, capita. Leonci, non mi sei andato in campagna allora. No, negativo, grazie. Gava, oggi Gian Maria è in girella. Dove ce l'hai andato insieme alla 50 lì a Cogio? Pietro, anche lui ha diritto di riuscire. Ciao, mi pare di no, ci sono andato io oggi, stamattina sono vicino a Pamongino, e cacchio qui da Macuca. Poi dopo pranzo sono andato a San Pietro, però era chiusa ancora. Allora mi ho fatto un giro al cimitero, e poi sono riandato a San Pietro verso le 4. E mi sono qui nel lava. Non bisogna pensarci durante le feste e andare a fare visite al cimitero, andarci tutti i giorni, sennò inutile che ci vai quando capita la festa, e cosa ci vuoi fare? Andarci tutti i giorni, io adesso da poco ero. La domenica scorsa ero insieme a mia madre, ero al cimitero, andati a trovare la buona di mio padre, dunque ci abbiamo messo i fiori, tutto quanto, e il dovere l'abbiamo fatto. No, non sono di quelli che andano a buscare l'anno io, no, io massimo al mese ci vado anche 4, 5 volte, anche 6 volte. Ne ho parenti che sono morti, dunque in mano lo devi dire a tutti, per dire oggi sono andato da quei 5, domani a chi va, domani vado a Matese, ma a mangiare, perché era chiuso il fioraio, dovevo aggiungere dei fiumi, e poi già ci vado anche in settimana, non sono di chi si, chi andava a buscare ogni morte di papà, no? Poi vado anche da amici miei che sono morti, capito? Ma io ando solo dai parenti miei, no? Da gente che conoscevo, me lo giro io, tanto a un viaggio d'andare, tempo un attimo. Ma come ti vuoi dire, ma non mi ammetto la ti vuoi dire, ma ricordo te lo dico, dai, riprendi già. Ogni tanto bisogna ricordarsi le parecchie, anche mamma dizia, ma non manco fiori di cagata, non lo mettete quando muoia. No, io già ci vado spesso già, magari prima entro e guardo, capito, vedo, perché non ci vado solo io, ci vanno i miei nipoti, capito, anche mia cognata. Prima parito loro, sì, magari se vogliono cambiare i fiori o aggiunti, capito, nei libri quelli che sono malandati, li aggiungo pure, quelli pongo tutti, secondo come sono. Però prima è tre quarto, poi se vengo a capire, devo pulire, vado a pongarle e li compro lì dentro. Torna a chiedere il bocco, o se no li prendo da Gianfranco, li amico mio, oppure da quell'altro. E dalla parte della Porta Torres, dall'altro amico mio, e poi mi rimbocco. No, sono bisogno sempre di fiori da Valentino. E poi mi faccio il giro, ho amici miei, pure di Greppa che erano morti, e ci vado lo stesso, pure di non so fare. Ma un ricordo sempre bello, capito? Che capa, ascolta Grazia, ma non è la bandita dove c'è il coso, no? Quello che modulava il baracchino, Marco 131, no? Mi pare che quella bandita gli ha detto Gianni, dietro le poste praticamente, quello vicino al circolo, c'è un circolo lì vicino, quello gli sta dicendo Gianni, lì però tanto tempo fa c'era un meccanico. Dopo la sera perciò i vecchiarini due devi girare la testa e ce lo spiace. E più avanti c'è le cose, la bandita, non so se ha preso quello, boh. Ma non la venta, se lui era via il portottore, se lo accetta Marco, lui era via il portottore, io sto parlando tutta l'altra zona. No, Marco è lì alla Tenolce, è dietro il conto e io l'ho visto lavando la macchina lì, in quel circolo dove c'è il meccanico, capito lì? Non so, guarda, io so solo che c'è il genero di Claudio che va per lui e sta facendo. faccio lavorare del genere, così mi ha detto quello che sto dicendo. Non è neanche da molto che e noi siamo andati con Antonello giù a Coso a trovare a Marco per il fatto che c'aveva un microfono e capisci, si ricorda che mi mancava un microfono e poi l'avevo adattato a quello che mi aveva dato Gianluca. Che ancora mi ha di apparecchiatura Marco? Mi sembra di sì, ce l'ha in campagna, c'ha una Mantova 5 e mi ha detto poi altre cose, non lo so, adesso non mi ha voluto spiegare proprio, non si ricordava bene cosa c'aveva, capito? Ma ce l'ha piazzata? No, tutto in campagna dice che no, ancora no, che quando c'è in casa ce la ripiazzava, però non lo so, se ne aveva voglia. Quindi non la sta vendendo? Non credo, no, non lo so già. Stavo sapendo che c'era stata la tua officina, Marco, io mi ricordavo che portavo i giornali, però poi da lì mi sono fermato. Io da Marco ero da molto senza vederlo, da quando uscivamo con Coso, io, lui, poi c'era Tonino Cavasacchi, Claudio Sparviero e altra gente ci pitati. No, io ce l'avevo trovato anche per trasmontare un motore da Coso, da come si chiama, la maestrale l'avevo trovato. Stavo smontando il motore di un furgone e lo stava facendo lui. E mi ha detto via non più lui, mi piace tutto il tuo. Mi ha detto che ascolto, già lo facevo ogni tanto, però non entravo. Io il giorno che sono andato con Antonello, abbiamo visto lì alla pagina, ho detto accanto mi ha fatto certo troppo, accanto mi a Pomponi e a Leoncino, cazzo, ho detto cazzo non sei la buona anima, ho detto cazzo, è rinata, eh? Ecco. E avanti. Ecco, scusa. Bellissimo, chi sei? Roberto. Mi dici il tuo nominativo, grazie. Roberto! Roberto Gamma, è carico. Gamma è carico, Quadrato. Roberto Quadrato, sì. Sono nel camper. Però non riesco a capire cosa dice. È nel camper, chi Roberto c'è, ha detto che non ti ha capito. Roberto Quadrato, camper. E vabbè, non si capisce cosa dici, dai, io non riesco a capire. Se sei nel camper, dimmi dove ti trovi. Cioè il radio lo stai proprio uscendo, proprio sei bassissimo, di segnale esci, ma la radio non esci. Non sono un radio. Passo! Ci sentiamo, ciao a tutti. Come è il passo del radio? Ciao, ha detto Roberto, sono con il camper, a sorso mi sembra. Ah, cavaga, ma dai, quando ti avvicini magari. Non riesco a capire ciò che dici, boh, è un bel strano. Anche io non è che lo tiravo fuori forte, mi sono dovuto avvicinare a Fusca, un bel basso, secondo che posto in che zona è, capito? Cavagava. Ma se non mi funziona già la sigaretta elettronica, boh? La partita che va fatta, fate più male di una sigaretta. Ma chi l'ha detto? Aspetta, prova a avvitarla. No, l'ho pulita, no, già, hai capito? Mi hanno tolto il liquido, quella roba là, l'ho tolta e la stavo pulendo e ce ne sono usciti i due fernetti, non so se sono d'acciaio o d'acciavolo sono, e non fa più, non tira più, hai capito? Permetti da rompere. E come viene tolto il liquido? Dalla carica? Sì, dalla carica. Mi ho tolto con l'aghetto, quello che devo per sfruttare e metterci il prodotto, gli ho tolto quel coso bianco che c'era, no? E l'ho svuotato. E da lì l'ho pulita, capito? Però si è distaccato qualcosa, boh. Sì, sarà la batteria che si sarà distaccata. Qualche cosa non si riprende lui. No, non lo so, adesso domani mattina vado da quelle delle sigarette elettroniche e mi faccio dare nuovamente un'altra cosa, quella dove metti il liquido, dai, il fuoco. Cosa, il caricatore, dai, il vaporizzatore. Quello lì, invece, quello non vuole svoltato, vuole cambiato. Quando tu senti il sapore di bruciato, vuoi ciambato. Lo so, io non erano già 2 mesi e mezzo che non cambiavo. Io di 2 cariche ho cambiato. Cazzo, a me mi dà un mazzato, si dura per qualcun altro. 2 cariche e via. C'è la mentenne che dura 1 mese e mezzo. Vai Giuseppe, vai ciamba. Cazzo, sempre viene pure l'inverno, c'è lo pieni così, miseria, pulisce, che la gente si pure io con la ragazza che c'era incinta. E porta lì un po' sto nascosto, io ne prendevo occasionalmente quando il capitano stavo scendendo lì, fanno più ma meno che mi fermavo lì, però questa parte di così andare un po'. Ce ne sono di quelli nascosti, tipo i survey, andare dove a Pirandello in Chile. Anche quello, vedi, molte volte io da quello me le prendo lo stesso. Quando passo da Sant'Orsano, invece di fare tutto, per esempio la Predaneta, se vado alla Briccola, passo al passaggio a livello di Sant'Orsano, io invece passare qua dietro dove c'è la chiesa, passo da Sant'Orsano perché c'è più spazio, mi fermo lì e le prendo lì le sigarette. Ma anche quello non ti credere che non venga, mica bisogna sentire che è pieno Borumisso. C'è stata la mente la generale, anche sul giornale è uscito che tabaccai stavano facendo meno affari, da quando c'è questa sigaretta elettronica, molta gente ha preferito comprare questa sigaretta elettronica per passare il vizio e quindi non sta più comprando sigarette. Io invece me ne avevo comprato un pacchetto da 10 e me l'avevo messo nel cassetto e ho detto che non le devo toccare, però se mi viene qualche crisi d'astinenza vi raggio, se no poi se mi capita di notte guai. Sono stato 4 mesi che non toccavo sigarette, 4 mesi, poi sarà per la forza del lavoro, questo e quell'altro, un giorno a giubilato, mangio spesso un computer, invece un cagare di fumare, me la ci fumata. E da lì ho, me ne ho fumato un pacchetto da 10, poi l'ho messo di nuovo. Fatto male, ecco, come io, vabbè, l'altra volta ero lo stesso, così, 4 mesi, ma ne batto in casa, non bevi più e mangio per gli altri cigarette, ho sbagliato, non li dovevi abbigliare, magari se mi cogliano da paura avevo 4 mesi, capì? Perché la lì mi ha aiutato la tappiglia, ecco. E tu che la tappiglia di caramelle al lungo dei cigaretti? Ti mangi una caramella come se c'è buffo mio. Già ogni tanto mi viene lo schidibiso, a me a casa viene chissà la luce, che era, aveva finito di fumare, tutto quanto ha fatto rappigliato, ma ieri non lo mette a pigliare tutto a fumare e fumare tutti a casa. Cazzo, mi viene bene la tentazione, è come se lo drogato, ora il buona droga sotto al naso. Invece a me non me ne la fa di fastidio. Mi piace a burro, mi piace a gallo, però la tentazione di fumarla non ce l'avevo, fumandomi a fianco a me mio nipote. Eppure no, indifferente. Perché ero tranquillo allo stesso tempo. Io me lo ripreso anche me ne batto in casa, ero nervoso, capito? Se non salgono qua, fumavano, io ero quello tranquillo. No, di caramelle, va giù mille tipi di caramelle, ma adesso sono diminuito, a chiamate si tempo, fumelle a mangiare caramelle un bel, adesso diminuito un bel, per esempio la sera, guardando il televisore mi rimaniamo gruppi di caramelle, tutti misciati di qualsiasi tipo. Adesso ieri me ne ho messe e me ne ho mangiato solo due e ti dico che non mi attira l'ebilizzata. A me mi piace la liquirizia, mi piace. Cioè anche quella, io non me la devo comprare da rimane, mi chiamare lo stesso, sono andata all'Eurospi e passo nello scaffale e me la ripigliato un pacco di tutti i misciati al caffè, alla menta, c'ho un vasoio di tipi che è pieno a bocca, uno in salone che è pieno, ce n'è dentro la cristalliera, non mi manca, diciamo che prima ne mangiavo un bel. adesso sto calando. Ci va lo diabete e vedo che non rimani nuda. O mangi quella senza zucchero oppure meglio non mangiarle. Grazie. Così è la regola. Poi se tu vuoi trasgredire. Ah, ma ne ho con lo zucchero e senza zucchero, c'ho anche quelle scatolette senza zucchero, la lamenta, la liquidità, tieni io che caramelle, cingomi non rimani, ma le caramelle già ce le ho, normali anche senza zucchero, non è che sono tutti con lo zucchero, ce le smisto io, capito, c'ho il vasoio, quelle che mi ingegno che mi mangio io, quelle senza zucchero, però gli altri mangiamo i figli burrici con lo zucchero. Grazie, io ti devo lasciare l'accompagnare a mio nipote, ci sentiamo magari dalla macchina, ok, se stai in ascolto, tanto ci metto 5 minuti a preparare, l'accompagno e accendo dalla macchina, ok? Nel frattempo io mi metto quell'altro barattino che mi ha dato Germania, mi attacco a quello, così vedi se mi senti meglio. Ok, dai, vabbè, sentiamolo. Ehi,